fossi io, viene lento divagar una musica brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. So che questo momento che cade a sorpresa durante la settimana, nessuno sa quale sarà il giorno eletto, è molto atteso, anzi è diventato il giorno più atteso. Questo mi preoccupa da un certo punto di vista, ma da un altro punto di vista mi conforta del fatto che ci sia comunque un bisogno di cultura, un bisogno di letteratura, un bisogno di nutrimento spirituale e mentale. Oggi è il giorno del libro infame. Ho qui tra le mani tre fantastici, meravigliosi libri infami che saranno regalati a coloro che apporranno un contributo di esperienza personale carnalmente vissuta rispetto all'argomento di questa mattina. Come ha detto che si chiama? Perché l'ho fatto? No, niente, è che non ho capito bene il nome. Alvaro Gasperoni. Siamo veramente onorati che lei abbia scelto il nostro ospedale per farsi le ossa. Le ossa? Ma non c'ho niente alle ossa! Sì. Bravo! Un buon medico deve avere sempre la battuta pronta. Non mi vengono così, tutto d'imbotto! Senta, che è? La fiderò all'equipe del professor Tambroni, è una delle migliori. Ma allora mi operano subito! Simpatico! Arrivederci! E la borsa? C'è poco da scandalizzarsi, sì, l'avete riconosciuto, Pierino, medico della Saub, un film di cui già lungamente parlammo e portammo come icona fantastica e profetica di un certo malcostume che si appalesò poi in Italia negli anni a seguire rispetto alle missioni di questa pellicola, di cui avrete presto notizie più dettagliate. Pierino, medico della Saub, un film del 1981, Alvaro Gasperoni, che è Alvaro Vitali, ottiene con infime raccomandazioni la laurea in medicina, perché il padre naturalmente lo raccomanda nella maniera più schifosa, arrivando addirittura a chiedere supporti massonici per poter poi vi spiegherò in che maniera era legato alla cronaca, per avere il posto al figlio, e comincerà naturalmente a operare come medico della Saab non sapendo fare nulla. Da questo illuminante esempio vorremmo dimostrarvi che quello che oggi è il filone più felice di una certa rappresentazione della realtà ospedaliera attraverso il telefilm americano, attraverso le serie telefilm su cui si fanno grandi studi, che rappresentano la più importante realizzazione di un prodotto televisivo, di film girati per la televisione, che hanno un pubblico internazionale, che vanno bene per tutti, piacciono tutti, e le vicende dei medici nelle corsie, degli spaccamorti, delle infermiere buone, quelle cattive, di quelle drogate, di quelle maiale, di tutte queste cose però raccontate in maniera da cardiopalma, da bravissimi sceneggiatori e superbi registi americani, diventano un genere di gran lusso. Ma questo genere nasce, affonda le sue radici ideologiche nella nostra filmografia di serie B, nella filmografia medico-ospedaliera infermieristica degli anni 60, prima, più tardi, anzi 70-80, si affondano le radici dei più importanti telefilm americani. Ora, questa realtà fatta di medici cialtroni, di infermiere scollacciate, di malati immaginari, probabilmente qualcosa affonda in una realtà realmente vissuta. Sentite, la mia salute si va minando via via che parlo di questo argomento, tanta l'immedesimazione in questo fantastico filone. Come si fa a guadagnarsi il lussosissimo libro infame? Apportando esempi realmente vissuti che portino conferma che questa realtà, che così lucidamente fu immaginata e rappresentata dai nostri migliori talenti nel cinema cialtrone, ha veramente un fondamento reale e concreto. Lei, che mano ha? Ah, due, una destra e una sinistra. Volevo dire, se ha la mano leggera. Ah, un chilo e due senza osso. Mettiamo le cose in chiaro, dottore. Sì. Io al mio sedere ci tengo. Anch'io ci tengo, le mani sopra. Non faccia tanto dello spirito. No. E mi dica piuttosto, sa fare bene le iniezioni? Sono un fenomeno. Io sono pronta. Faccia la svelta. Si mette il tempo. È uno, è due. Ma se manco l'ho toccata. Ma lei cosa fa? Le iniezioni così? Ma perché? Come si devono fare? Ma con lo schiaffo, no? Ah, con schiaffo. In questo fantastico cammino nel nostro immaginario raccontato, in questa formidabile collazione cercherò di fare con la vostra realtà vissuta a prezzo del fantastico libro infame, chiamando all'800240024, non potrei fare a meno del mio Virgilio in queste consuete indagini settimanali, che è Giuseppe Sansonna. Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Di cosa stiamo parlando questa mattina? Parliamo di quanto nel genere scollacciato infermieristico negli anni 70-80 si delinea l'immagine di questi medici, appunto, come dicevi tu, cialtronissimi, che hanno spesso il volto tapiraceo da uomo tapiro di Alvaro Vitali, accostati a bellezze strepitose come quelle di Nadia Cassini, Barbara Boucher. Cioè, siamo sempre mi ricordo il grandissimo, il sommo Louis Ferdinand Céline, che parlava delle, come deontologicamente il medico debba avere un appeal erotico. Da lì derivi in fondo questo legame, questo strettissimo fra il mondo medico e quello dell'erotismo. Ma ti fermo subito immediatamente, perché tanto abbiamo colto nel segno nella nostra sconsiderata ipotesi di questa mattina, che già mi scrivono su Facebook. Cristiana: ho fatto l'epidurale per il parto e sono dimenticato di togliermi l'ago. Me lo sono tenuto per 24 ore. Quando me l'hanno sfilato non è stato piacevole. Daniela: andavo da un ginecologo VIP a Torino negli anni 80, il quale ogni volta che scendevo dal lettino mi dava una sonora sculacciata sul sedere. Poi passavo alla reception e pagavo parcelle da 300 euro. Decisi infine che non valeva la pena di continuare ad andare da lui per essere cornuta e mazziata. Vedi che esiste in realtà una sorta di senso comune nel nostro costume, nella nostra vita sociale, nei rapporti del nostro paese, in questa rappresentazione. E avevo citato Pierino Medico della Saub. Pierino Medico della Saub è un film fantastico, perché per la prima volta si cominciano a vedere dei legami tra poteri forti, tra corruzione, tra malversazione politica. E poi nella vicenda giusto o sbagliata, ipervalutata o sottostimata di Tangentopoli, ebbero comunque una loro rappresentazione. Puoi citarci qualche esempio? Beh, Alvaro Vitali in questo film, in quella scena che abbiamo ascoltato, parla con Garinei, che è il fratello di Garinei, il commediografo, e viene raccomandato dalla P2. Lui viene assunto in quanto raccomandato direttamente dalla grande loggia del venerabile. Era un film dell'81. Era un istante. Trattarlo, tutto sommato, significava avere comunque un accenno con la, un accenno, un attacco concreto con la realtà. Fortissimo alla cronaca, stare sul pezzo della cronaca, perché era scottante in quegli anni. In quegli anni ricorderei che anche poi anche Noschese stesso pare che fosse sì, c'è una vicenda, faceva le voci dei politici per ottenere non si sa quali fa parte fra sono quelle vicende che appassionano i lettori di Storia Patria, che il confine, il discrimine tra il leggendario e il concreto ormai non è più importante. Si dice quindi esattamente nel nostro immaginario, come nel nostro immaginario sono le infermiere e i medici della muta raccontati in questi film. Sì, e poi mi ricordano sempre, il tema di fondo è questo, che ci sono degli uomini con dei volti orrendi, spesso vecchi, questi Mario che l'ho tenuto in fin di vita, che utilizzano queste infermiere come una sorta di eutanasia morbida che gli garantisca, avvolgendolo del miele, sì, dell'eros. È l'antica figura della divinità psicopompa. La psicopompa è appunto l'entità che prende l'anima e la porta per la mano verso il confine del mondo dell'aldilà. Quindi diciamo queste infermiere psicopompe rappresentavano una figurazione attraverso lo strumento moderno del cinema delle antiche mitologie, che danno agli uomini il conforto che oltre la vita sarebbe stata un'altra vita. Cioè l'archetipo della psicopompa c'è nel Cielo può attendere di Lubitsch, non so se ricordi, quando c'è questo libertino che è convinto di andare all'inferno, va a parlare col diavolo, ma l'ultima donna che ha nella sua galleria di Don Giovannesca è questa infermiera che ne accompagna la morte in maniera dolce. Diciamo che personaggio che poi fu ripreso dal sommo maestro Tarantino nella scena famosissima, non so se abbiamo la possibilità di avere una colonna sonora, ma c'è quel famoso passaggio, ecco, ce la sta facendo Sansonna in diretta. Ecco, spiega esattamente la citazione. Il film Tarantino, a un certo punto, al momento del risveglio della sposa di Black Mamba, la sua collega andava a ucciderla vestita da infermiera sexy. La infermiera sexy, esattamente come una iper estetizzazione di Gloria Guida, no? con tanto di benda sull'occhio cavato che è a forma di croce rossa, vestita da infermiera fetish. Si mette le calze autoreggenti con il pizzo per andare poi a uccidere una persona. Alla fine, perché poi nel cervello, in ebollizione di Tarantino, vanno in collisione, appunto, legge di pornografia, perché in fondo cos'era questa commedia erotica degli anni 70-80 se non un travaso molto soft, molto soft nazional popolare di quello che era un genere del porno, perché evidentemente negli archetipi dell'immaginario erotico l'ambiente clinico accende molte fantasie, però per farlo accedere al mainstream popolare del cinema bisogna metterci Alvaro Vitali, Renzo Montagnani, che l'ho tenuto, e Nadia Cassini e Gloria Guida, e softizzare tutto. Tarantino riprende il porno e però ovviamente lo deprime delle scene più hard, ci mette questa infermiera che però si veste ritualmente, si mette giarrettiere bianche appunto da infermiera per andare a fare l'iniezione letale. Se ci pensi bene, lo tocca in maniera atroce, molto più in là di ogni hard immaginabile. Pensare che la sposa Black Mamba in coma profondo veniva affittata all'infermiere come oggetto di piacere per dei maniaci necrofili, che è la cosa peggiore possa accadere a un essere umano. Quindi da lì nasce tutta la chiave della sua vendetta. Diego, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno Sansonna. Effettivamente questa questione della psicopompa infermiera è una figura interessante. Io devo dire che ne ha avuto esperienza diretta? Non ne ho avuto esperienza diretta, anche se probabilmente l'ospedale che ho frequentato io da bambino aveva la presenza anche delle psicopompe, indubbiamente, visto forse anche il grado di incompetenza medica, ma forse erano più brave nelle psicopompe. E cosa le è accaduto? Praticamente io ero malato, avevo mal di pancia molto forte e vengo portato al pronto soccorso dell'ospedale dei bambini, proprio negli anni in cui tra l'altro venivano girati questi film di medici all'Alvaro Vitali. E mia madre, leggendo uno di quei manuali, mi pare che era il Benjamin Spock per le madri, no? Che è anche quello abbastanza delirante, ma che comunque qualche piccolo elemento di verità ce l'aveva, e leggendo quel manuale dice ai medici: ma non potrebbe essere morbillo questa cosa che ha mio figlio? E i medici: ma lei come si permette di dare diagnosi così azzardate, eccetera? Loro mi prendono, mi mettono in ospedale, mi ricoverano, mi operano di appendicite, perciò mi estrapolano un pezzo del mio corpo in maniera del tutto arbitraria. Appena operato, mi hanno ricucito, mi hanno rimesso nel letto. Dopo poche ore viene fuori, si manifesta il morbillo nella maniera più evidente, la maniera più eclatante, e imbarazzo generale. Loro devono anche togliermi dal reparto nel quale ero ricoverato, perché potevo essere contagioso per gli altri, e mi mettono in un altro reparto, anzi in un'altra stanza, dove c'era un bambino che purtroppo era malato di meningite, perciò io rischiavo pure di prendere la meningite, perciò i miei mi hanno prelevato dall'ospedale e mi hanno poi portato via. Quindi questo rappresenta una situazione paradossale di mala sanità che lambisce soltanto lateralmente, però dall'idea dell'humus culturale in cui si svolgeva l'aspetto boccaccesco e ludico. Quindi comunque Sansone deve aggiungere qualcosa a quello che dice Diego. In relazione a questo io ho un episodio di prima mano raccontato di un amico infermiere che... Tu non vinci niente comunque. Però lo racconto lo stesso, speravo di ottenere qualcosa comunque. Un infermiere capitolino che negli inferi degli ospedali appunto della capitale negli anni 70, probabilmente con qualche anno di galera sul groppone prima di accedere all'infermieristica, preferiva fare il turno di notte, perché così praticamente quando doveva passare a fare il turno andava a controllare tutti i malati, gli tolse tutti i campanelli per poter chiamare aiuto dagli infermieri a tutti i vari malati che insomma stavano in condizioni particolari, e tornò con questa sorta di campanelli che servivano per la chiamata. Quindi da lì i molti decessi notturni che avvengono di notte negli ospedali si sono legati anche a queste mancate chiamate. Devo fare un chiarimento, visto che stanno arrivando messaggi un po' preoccupati di signore un po'. Il termine psicopompo che stiamo usando è una divinità greca, era la figura che portava, che accompagnava appunto le anime dei morti dell'oltretomba. Psicopompo viene da psiche, che vuol dire anima, e pompos, che è il conduttore, colui che conduce. Quindi la figura psicopompa è colei che conduce l'anima nell'aldilà. Non ci sono scurrili doppi sensi come uno potrebbe senz'altro credere. Dino, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Io le racconto brevemente la mia avventura. Quella è stata, dovevo essere operato per un varicocele ai testicoli, no? Sì, beh, allora è un'operazione come un'altra. Non se ne vergogni, non si senta meno matto o vergognoso per questa operazione. No, no, no. Si riacquistano tutte le funzioni, tranquillo, dico. Sì, sì, sì, sono tranquilli. Allora la dottoressa mi prepara un'impegnativa per un'ecografia scrotale dello scroto. Mi presento dall'ecografo, vado a fare questa ecografia e noto che la preparazione è un po', diciamo, ambigua, no? Vedo che calza un preservativo sull'attrezzo dell'ecografia, mi dice di stare... Cioè, voleva farle avere un rapporto sicuro con l'ecografo. Mi dice, si metta su un fianco, non si preoccupi, respiri profondamente. Gli ho detto, ma scusi, dottore, ma cioè, perché passa da dietro per fare l'ecografia allo scroto? Ma qual è scroto? Qui c'è scritto rettale, mi ha detto, nell'impegnativa. Praticamente aveva letto rettale invece che scrotale e stava per farmi... Quindi lei si è salvato il C proprio per un attimo, in estremis. Sì, sì. E lui mi ha detto, poi sorridendo insieme agli altri infermieri, ha detto, ma sì, al massimo sarebbe stato un esame in più che faceva senza neanche pagare il ticket. Eh beh, certo, gratis, vorrei vedere. Sì, quindi gratis, ecco, piacevole, gratis, diciamo. Beh, senta, devo dire che questa sua... salvezza in extremis mi ha veramente commosso. Guardi, non dovrei farlo in maniera così diretta, così spontanea, soprattutto all'inizio, perché tolgo pathos, però la sua vicenda è talmente dolorosa, è talmente l'è stata sul ciglio della perdita non soltanto della propria integrità virile, ma anche di una pericolosa e lancinante lacerazione, seppur con protezione, che l'avrebbe senz'altro causato dei problemi nei giorni a venire, che quindi in questo momento... Il vincitore è... E vinco qualche cosa? Allora, lei vince grazie al pericolo che ha corso e grazie alla facoltà e alla possibilità che ha avuto di riprendersi a questo grave trauma di una sodomizzazione non necessaria, seppur con protezione, Alluci Allucinati, di Lamberto della Modesta, Sovera Edizioni. È contento? La ringrazio tantissimo. Se lo merita veramente, grazie. grazie a lei. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo intervenire in merito perché una... ex amiche di famiglia, diciamo così, che faceva l'infermiera in questi ospedali, era praticamente una infermiera che praticava la psico ma anche pratica pompa. Mi spiego. Sì, adesso non giochiamo troppo sul doppio senso, no? Scivoliamo. È bello lambire la facezia, ma se dopo non siamo lo zoo di 105, con tutto il rispetto. No, perché... Lei diceva che questa infermiera aveva anche, vabbè, fatti suoi. Sì, lo dica in maniera figurata, che è meglio. Però la cosa si svolge anche da un lato pratico, perché nel momento in cui un vecchietto anche non aveva particolari esigenze, anche soltanto tra virgolette una palpata, poteva essere per lui il massimo che poteva aspirare in quel momento. Cioè poteva prendere un colpo? Più o meno, forse era il momento migliore in cui voleva trapassare, o il modo migliore in cui voleva trapassare. Va bene. Tutto lì. Quindi è come ce lo può attendere, appunto, c'è questo ultimo momento di questa sorta di eutanasia morbida, insomma, che viene praticata. Bene, è stato un episodio di vita vissuta, l'abbiamo ripreso per i capelli in tempo, quindi questo ci dà segno che in realtà tutto ciò che è stato immaginato e prefigurato in questi film comunque affonda in qualche maniera le sue radici in una realtà storicamente avvenuta, e questo è ben scritto in lettere di fuoco nell'esperienza carnale dei nostri ascoltatori. Melog 2.0. Ho visto una nuova cliente, voglio vedere chi è. Ah, quella è mia nipote. Sì, è arrivata ieri da Roma. Ah, e allora perché non l'ha detto subito? La facevamo entrare e stavamo meglio tutte e due, no? Buona. Buongiorno signorina. Salve. Salve, mi chiamo Angela. Ah, lei è la nipote della zia? Sì. Ma lo sai che sua zia sembra una bambinella di 5 anni? Si lamenta sempre. Ha paura. Sì, non vuole stare. Buona. Allora arrivederla signore, torni pure quando vuole, A presto dottore. E porti con lei la bella nipotona. Arrivederla signorona. Sandy Melda delle Dolomiti. Facci venire due gengiviti. Così io me la protaso tutta quanta della capo. Quando Banfi ancora non era un attore impegnato, un fine rappresentante delle problematiche sociopolitiche del nostro paese, quando non era considerato una delle punte più avanzate della drammaturgia italiana, faceva meravigliose rappresentazioni come... Questo è l'infermiera di notte, lui è questo dentista strepitoso, quando appunto ancora non era questo nonno libero, togato, ambasciatore unico. Politicamente correttissimo. Ma era quel guittaccio efferato, viscerato. Chiamavamo tanto. Chiamavamo tantissimo, questo monologo degno di Laurence Olivier, in cui riesce a passare da tutta questa serie di invocazioni ai santi, poi a questi versi da babbuino impazzito, iperteso, che erano proprio la sua cifra attoriale più spiccata e più interessante. E qui davanti al corpo di Gloria Guida ambisce appunto un po' come l'ambizione che aveva il medico che ha incappucciato la macchina, la sex machine di prima, il sodomizer che non si capisce. Poi sto pensando, ma per fare un'ecografia c'è bisogno di un attrezzo così dimensionato tanto da meritare il baluardo di un profilattico? Questo mi fa pensare in cliniche dell'orrore fantasmagorico in cui sarà capitato il nostro ascoltatore che abbiamo giustamente. Sicuramente c'è anche una telecamera nascosta accesa che poi diventava una sorta di... Non vogliamo pensarlo, ma l'abbiamo compensato di questo suo momento faticoso. 800 24 00 24, stiamo parlando del genere infermieristico ospedaliero nel B-movie italiano e stiamo dimostrando, come avevamo teorizzato, che in realtà quelle facezie, quelle gag, quei paradossi, quelle assurdità traevano e traggono tuttora ispirazione concreta nella realtà che realmente accade nelle corsie dei nostri ospedali, in alcune corsie di alcuni ospedali o di alcuni luoghi onirici che comunque i nostri ascoltatori raccontano come realmente vissuti. Nadia non ha retto all'emozione. Ferdinando. Sì? Buongiorno. Ecco qua. Allora, la mia storia. Io quando vedo la mia cicatrice, che è rimasta minima. Dove? Dell'appendicite. A che età l'ha fatta l'appendicite? Mi riporta. A che età l'ha fatta l'appendicite? Il mio ricordo. A 21 anni. 21 anni. Adesso ne ho 62. Quindi 40 anni fa. 70, anni 70 insomma. Ecco. Fece l'appendicite. Dolori, si va all'ospedale d'urgenza e dicono appendicite. Ho operato diciamo urgentemente perché i dolori erano talmente feroci che okay. Poi, una triste situazione, dopo, però sì, dopo l'operazione naturalmente non riuscivo più a urinare, quindi con dei dolori. Allora gli hanno messo il catetere. A quella notte, no? Beh, quella notte lì c'era una bella infermiera. Se questo è argomento più da Nicoletta Carbone o da Melog, solo per capire. Ma ecco, esatto. No, perché stiamo in una zona pericolosa. Se lei parla dell'aspetto della mancata minzione, devo passarla a Nicoletta Carbone. Si occupa lei di questa cosa. Se lei parla dell'avvenuta infermiera, deve continuare. Vabbè, ma comunque voglio dire, no, il suo nome era Rita, quindi Non si dice però. Va bella, bionda, naturale, né? Come fa a sapere che era naturale? No, come fa a sapere che fosse bionda naturale? La cosa l'ha capito. No, perché l'età che aveva allora non si usava molto a dipingersi i capelli, cambiare colore, vabbè. Marilyn Monroe lo faceva negli anni 50. Però era bellissima, insomma. Ecco, niente, non riuscivo, non c'è niente da fare. Beh, e le faceva la faccenda del catetere è escluso. Cioè lei è arrivata col pappagallo, e poi mi ha alzato i testicoli delicatezza nel raccontare queste miserie in cui tutti molte volte siamo. No, ma per dire anche il metodo che ha adoperato senza. Beh, certo, mica le alzava le orecchie per farle fare la pipì, scusa. Spingendolo contro il pene e praticamente e con una mano schiacciando c'è la reticenza pancia, però anche un po' di reticenza sulla pancia, sono riuscito a urinare. Per me è stato ha fatto il suo mestiere, scusi. Beh, cioè, no, ma è stata bravissima perché l'infermiera. Pensando al catetere è sempre un dolore atroce, insomma. Adesso lei alla sua età lo saprà che sono cose certo. E lì poi ho detto come sto da Dio, è come se avessi fatto l'amore, no? Sì, allora lei mi ha guardato e poi ho detto insomma, vuoi proprio che finisca così? Se lo sta inventando è vero. Bisogna questo. Approfondire. No, scusi, se lo sta inventando è vero questo? Sia sincero. No. L'ha sognato soltanto oppure è accaduto? No, questo è accaduto veramente all'ospedale. Allora lei ha detto, come mi hai fatto fare la pipì tu non me l'ha mai fatta fare nessuno. E lei mi ha detto, questo mi ricordo benissimo, ha detto, ehi ragazzo, sei un gran bel ragazzo, ma lo sai, qua dentro insomma non si possono fare queste cose. perdo il posto. E io ho detto, beh, insomma, è impossibile che finisca così, sei bellissimo. E poi altre parole dolci, no? Mm-hmm. Anche l'anestesia, cioè, il post-anestesia aveva avuto la sua parte in questo momento, sì, allucinatorio. Dopo mezz'ora arriva, viene dentro, non è la camera, no, luce quasi spenta, insomma, quelle lucine azzurrine che c'era così. Sì, quelle da obitorio. Ma, ok, mi ha fatto una carezza, no? Perché ero lì che stavo quasi pisolando, stavo da Dio perché oramai mi sono sfogato, l'urina è uscita. Sì, vabbè. So. Allora, aveva dato per quella sera. Ha fatto una carezza e poi mi ha allungato un bigliettino del numero di telefono e ho detto, beh, quando l'ho guardato così, ho visto il numero, ho detto, guarda, ho detto, allora ci vediamo, di telefono, appena mi sono rimesso naturalmente, perché insomma è logico, ecco, ci siamo visti, ok, una volta una grande storia d'amore, e poi alla terza volta sono andato a casa sua e abbiamo fatto l'amore. Ah, oh, finalmente. No, no, davvero. Sì, no, sì, davvero. No, ci credo, no, ci credo. Non è... sono commosso. No, no, davvero. È per quello, no, che è stata una storia romantica. Guardi, è io per quello che quando dico vedo la temevo la brutalità della consumazione col pappagallo in mano. Invece c'è stata una lenta sfumata verso una storia d'amore, vi siete visti, quindi è vero amore, non era semplicemente una sorta di turpe e compulsiva consumazione da Pierino Alvaro Vitali in corsia d'ospedale, è una storia d'amore con una signora che l'ha vista, l'ha apprezzata, l'ha aiutata nel momento del bisogno, l'ha aiutata a liberarsi di un peso che lo opprimeva e poi è nato l'amore. Bene Ferdinando, una bella storia, vero? Sì, sì, sì, sì. Mi ricordo appunto De Gregori che diceva farci fare l'amore dalle infermiere in generale, ti ricordi? Nulla a che fare naturalmente con quello di cui stiamo parlando. Allora giochiamo? Come giochiamo? Sì, certo, tu fai il medico e io faccio l'ammalata. C'ho la bua qui, mi fa male. Ah sì? Sì. E dove? Sì. Dove ti fa male? Dove? Qui al pancino, all'appendice. Che bella bua. Ma dov'è l'appendice? Entrando a sinistra. No, non lì, più in su. Ah, sì sì, è più in su l'appendice. L'appendice dove vuoi tu, gattina mia, gallinella mia, cagnetta mia, micetta mia, puledrina ma mia. Ma insomma, fammi capire, tu sei un medico o un veterinario? Allora, questo dovrebbe essere Il medico e la studentessa, mi sembra, con Gloria Guida, che è il film che probabilmente avrà visto il nostro ascoltatore prima di vivere quella fantastica vicenda di amore e appendicite. E in realtà, sì, la realtà romanzesca a questo punto è lievemente diversa, quella sublime e leggiata storia d'amore che lui ci ha raccontato. Arte e vita si mescolano, cioè, in questo suo rantolo carico di nostalgia del nostro ascoltatore che ha rivissuto, si è reimmerso in quella vicenda toccante, bellissima. E qui c'è una Gloria Guida che era... La cosa particolare che avevano queste bellezze era che non essendosi riconate, erano, ciascuna aveva la sua particolarità, erano diverse le une dalle altre, avevano un appeal erotico che era un po' il cliché, se vogliamo, di Susanna. Facciamo degli esempi, insomma, Nadia Cassini. Nadia Cassini è appunto, cioè, strepitosa. Il suo posteriore. Sì, sì, sì, famosissimo. Tra l'altro, Nadia Cassini, nata a Woodstock, ha delle particolarità biografiche incredibili. Nata a Woodstock e ha avuto una storia con Simenon, cioè questi incontri di mondi. Georges Simenon ad Alvaro Vitali, insomma, c'è una serie di cortocircuiti incredibili. E la cosa particolare è che erano un po' come il rimando biblico di Susanna e i vecchioni, c'erano queste donne meravigliose, sempre nude, con uomini schifosi, con uomini abietti, alla carotenuta, appunto, vecchissimi, babosi. Questo l'abbiamo detto volte, dava conforto alla media nazionale maschile, che siamo dei schifosi e avvizziti signori, che anche per noi ci potrebbe essere, sì, anche l'accesso. Oltre, perché Alvaro Vitali non è che ce ne siano tanti di volte all'Alvaro Vitali, sì, cioè, in effetti. Sì. Sentiamo Nadia, molto interessante la sua storia. Nadia? Pronto? Eccomi Nadia, sto ascoltando. Buongiorno a tutti. Niente, io volevo raccontare una storia che mi è capitata parecchi anni fa, quando praticamente un giorno sono praticamente caduta su uno spigolo di un mobile e dolori atroci. Come si fa a cadere su uno spigolo, scusi? Cercando di mettere gli addobbi dell'albero di Natale. Ah, ecco, era sopra una scaletta. Quasi, un trespolino. Sì. Sono praticamente caduta, ho preso una gran botta all'osso sacro, sullo spigolo di questo mobile. Ci dicono tutti questo. Sì. Cosa vuole? E poi? E dopo 2 o 3 giorni di dolori atroci non riuscivo a sedermi o quant'altro. Aveva un dolore fortissimo, diciamo, non riusciva a sedersi perché era caduta su uno spigolo. Esatto. E sono andata praticamente al pronto soccorso, mi hanno fatto praticamente i raggi. Questo però, scusi, la fermo un attimo per dare suspense. È un sottogenere, sono le disavventure da pronto soccorso che si entra in un clima di leggenda metropolitana. Comunque vado avanti, cosa era successo? È successo che praticamente mi ha fatto le radiografie e alla fine le ha guardate una dottoressa, la quale praticamente mi ha diagnosticato una bella frattura all'osso sacro. Che, come più sapranno, la frattura all'osso sacro comunque si guarisce da sola, insomma, sì. Non è che ci sia un'ingessatura o quant'altro. Sì, sì, bastano delle applicazioni. Mi hanno prescritto tipo quel cuscino, quella ciambella praticamente da mettere in macchina sulle sedie o quant'altro. Sì, quella ciambella col buco, un po' vergognosa, esatto. Però lei girava con quella. Abbastanza vergognosa, infatti ho fatto acquistarla con la scusa del nonno. Sì, e... si usano anche per problemi emorroidali, sono quelle cose... Esatto. Lo so. E praticamente quando sono arrivata a casa ho detto, beh, aspetta che guardo queste radiografie, praticamente guarda bene, non era la frattura all'osso sacro, bensì era la spirale che all'epoca portavo praticamente. E quindi? E quindi praticamente la dottoressa, no, donna oltretutto, che dovrebbe avere anche una certa sensibilità e magari conoscenza, aveva scambiato la spirale che i raggi avevano evidenziato come una frattura. E il dolore da cosa era dato? Dalla spirale da una stessa. Una gran botta e basta. Quindi non ha nessuna frattura, soltanto una spirale. Esatto. E quindi? E quindi mi sono tenuta la botta e dopo... E ma col cuscino che ci ha fatto, scusa? Il cuscino l'ho regalato come salvagente ad una bimba. È passata a metodi anticoncezionali meno cruenti? Dopo sì. Va bene, guardi, è una vicenda talmente intricata, talmente complicata, talmente a lieto fine e talmente avventurosa nella caduta sullo spigolo per fare l'albero di Natale, nell'osso sacro lesionato, nel cuscino bucato che le ha acquistato, nella scoperta meravigliosa di quella spirale che le dava quel dolore lancinante, che, devo dire, merita una compensazione. Il vincitore, ho vinto qualche cosa? A Nadia, che temeva di avere qualcosa di rotto, in realtà aveva soltanto qualcosa di fuori posto, noi regaliamo Bassa macelleria sentimentale, libro infame di Emanuele Finardi, che penso che l'aiuti nel seguito della sua esistenza. Contenta, Nadia? Lo leggerò con molto interesse. E stia attenta la prossima volta dove mette il sedere. Alla prossima volta ci sentiamo, cioè ci sentiamo dopo le informazioni del traffico, perché ancora devo fare una terza parte di questa trasmissione. Melog 2.0. Assistenza psichiatrica, prospettiva e nuovi orientamenti. Buonasera. Ah, buonasera. Io sono la nuova infermiera. Lei è il dottor Santarelli? Già. E lei che legge questa roba? Beh, ci provo, dal momento che devo lavorare qui. Brava, le sue colleghe di solito non vanno oltre Paperino e Nembo Kid. Sentite, adesso vi dimostro perché fare una puntura è un gioco veramente da bambini. Basta tirare un lungo sospiro e rilassarsi. Signorina, si tolga le mutandine. Come? Qui, davanti a loro? Eh sì, signorina, se no l'esperimento va fetecchiole. Eravamo d'accordo così, no? La vita di questi adesso è nelle sue mani, insomma, nelle sue chiappe. Mi va bene. Ah, adesso vi dimostro che fare un'iniezione è proprio un jeu de saint fa, insomma una stronzetta, ecco. Basta chiudere gli occhi e come Michelangelo dice, perché non balli? Ecco. 800240024, stiamo andando avanti in questa nostra faticosa, dolorosa ma necessaria catartica contrapposizione tra realtà romanzesca della filmografia infermieristica ospedaliera anni 70 e 80 e alcune storie salaci di vita vissuta. Io vorrei sottolineare il fatto che molti ascoltatori chiamano dicendo ci sono momenti di dolore, di disperazione, di alta professionalità nelle corsie d'ospedale che non dimentichiamo e sappiamo esattamente. Però oggi è una trasmissione basata sulla leggerezza. Vedete, ascoltatori e ascoltatrici raccontano episodi di mala sanità che in realtà porterebbero all'indignazione, alla disperazione, al desiderio di punizione e repressione da parte dei responsabili, con una certa leggerezza. Il fatto che noi li contrapponiamo alla commedia leggera, alla salace rappresentazione dei filmacci degli anni 70, vuol dire che a volte ci possiamo anche concedere dei momenti di leggerezza e di tranquillità. Questo dico perché tanti ascoltatori e ascoltatrici portatrici richiamano, rivendicando il diritto della dignità professionale di chi lavora negli ospedali, diritto che noi non neghiamo assolutamente, di fronte al quale siamo profondamente attenti. Però questa mattina lasciateci scherzare un po'. Maria, buongiorno. Buongiorno. Era per lei tutto questo pistolotto? Sì, lo so. Guarda, a me dispiace questa cosa quando si parla male di infermieri, perché si dovrebbe fare una trasmissione per le condizioni del lavoro, di come lavorano gli infermieri, e dei doppi turni che si fanno negli ospedali, 14-15 ore. Ma tutte cose che nessuno di noi nega, questo lo sappiamo, però ogni tanto si può anche scherzare. I signori che mi hanno preceduto, mi sembrava un sogno erotico, non sono. Ma infatti l'ho preso in giro a sangue, non so se lei se ne è accorta, non è che l'ho preso sul serio. Tante volte si fanno un'idea sbagliata di noi degli infermieri, già che siamo una categoria denigrata, un po' la classica infermierina che insomma con il paziente, quindi un po' questo a me dispiace. Ma ci saranno e non ci saranno? Guardi, le posso dire una cosa, lei parla con un giornalista, non esiste categoria più denigrata. Più denigrata ai giornalisti. Ma io, se vedo un film in cui viene rappresentato un giornalista cialtrone o messo in ridicolo, non è che mi arrabbio, ci rido sopra, non mi sento difensore di una categoria perché qualcuno ironizza. Io sarei un po' più leggero anche. Guarda, io lavoro in ospedale, ci faccio un'infermiera e quindi lavoro reparti che sono in prima linea, nel senso pronto soccorso, rianimazione, quindi. E spesso c'è proprio, vedo tra la gente questa idea dell'infermiera che un po' va a fare la bambolletta, la classica bambolletta che viene. Ma secondo lei perché c'è questo doloroso pregiudizio? Sì, questa mi dispiace tanto. Ma perché c'è, secondo lei? Vediamo se ci aiuta a capirlo. Perché magari proprio esattamente i giornalisti, la pubblicità, i film che vengono fatti sull'infermiera danno un'immagine sbagliata. Che non esiste assolutamente questa idea. Non è la infermiera stupida e magari bella, perché noi siamo laureati, facciamo 3 anni di laurea e 2 di specializzazione, che sono 5 anni proprio come un giornalista, quindi non capisco perché dobbiamo, insomma, a me mi ha dato tanto fastidio oggi, veramente. A me dispiace che lei sia stata urtata, però io rivendico ancora una volta il diritto ogni tanto di poter scherzare anche sui comuni più cialtroni. Le ripeto, se lei ha battute, barzellette, storelle su giornalisti, me le racconta e ci faccio una risata sopra. Capisco che la realtà con cui si confronta lei è infinitamente più dolorosa e più problematica e più faticosa di quella che posso affrontare io tutti i giorni, però mi creda, non c'è nessun malanimo, lo facciamo perché ogni tanto è bello lasciare alla persona la libertà di giocare anche con le proprie ossessioni oniriche, con i propri paradossi, con le proprie fissazioni, con i propri osceni pensieri cattivi, poi dopo ci si sente meglio. Comunque grazie Maria, spero che lei sia stata un motivo compensatore da parte di tutte le infermiere che questa mattina sono sentite messe ingiustamente alla berlina. Silvano. Sì, buongiorno. Beh, volevo solo fare un commento su questa, sul racconto di Ferdinando, che è meraviglioso. L'infermiera giustamente un po' offesa, io sono carabiniere in congedo. Quindi pezzi sui carabinieri, quante ne potremmo dire sui carabinieri di Barzelletta? Però salvo d'acquisto dalla chiesa, degli eroi. Vabbè, ne abbiamo già detto, sì. Lei ha un episodio di vita vissuta ospedaliera? Breve. Velocemente. Dal dentista, non in ospedale. Quando avevo 5 anni, nel 70, i miei mi mandarono da un dentista di lusso mentre ero all'apparecchio, ed erano gli anni 70, dentista abbronzato, infermiere con le gomme corte. Io ho 5 anni, non capivo, mi mettevano all'apparecchio, il dentista diceva all'infermiera, signorina, mentre mi operavano, sa qual è il muscolo più forte nel corpo umano? E io ascoltavo e lui flirtava in realtà e disse la lingua, signorina. Io poi tornai a casa, feci un tema, lo dicevo ai compagni di scuola, sapete qual è il muscolo più forte nel corpo umano? La lingua. Poi più o meno dopo 10-12 anni ho capito. Guardi, mi ha veramente commosso e mi ha toccato. Resti in ascolto sull'attenti. Il vincitore. Ho vinto qualche cosa? A Silvano, che nello stesso tempo mi permette di premiarlo per la conferma di due luoghi comuni, il rapporto libertino tra infermiere e medici e la, diciamo, necessaria lentezza di comprensione del carabiniere, che dopo 12 anni ha capito che la lingua a cui alludeva il dottore alla sua infermiera non era cosa da scrivere nel temino. Regalo La vergogna di Luigi Anolli, Quando la nostra immagine va in frantumi, che è un meraviglioso libro scellerato che 3 giorni fa sarebbe stato il protagonista della nostra trasmissione, ma avendoci dato buca l'ospite, io ne sono orgoglioso, lo regalo a lei, l'orgoglio è nei secoli fedele. Arrivederci a tutti, grazie Sansonna e ci sentiamo per la prossima volta. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.